Bene, ci siamo. È il momento di Stona Favola, come ogni giovedì a partire dalle, 15. Quest'oggi non è con noi Ottavia perché ha avuto un contrattempo e quindi sono solo con David e la nostra ospite Sonia Barbadoro. Intanto benvenuta, grazie, Sonia. Grazie mille, grazie mille. Come va? Molto bene, grazie. Oggi avremo a che fare con Pinocchio. Sì, con Pinocchio, che è una delle mie favole preferite e anche preferita del mio bambino che è qua con me, che non vede l'ora, quando sarà forse più grande, di leggerla lui, chi lo sa. E ha detto che voleva leggerla anche lui. Ha detto lui, che voleva leggerla anche lui e vorrebbe fare il dialogo tra Mastrantonio e Geppetto, brutto scimmiotto Polendina, brutto scimmiotto Polendina. Vero Seba? Allora, direi, se David è pronto, di cominciare subito, sì. Poi ci facciamo una chiacchierata con più tranquillità dopo la lettura. Questa chiaramente è una versione ridotta della favola intera, che è lunghissima. Era inevitabile, certo. Insomma. Allora, buon ascolto. Questa è la storia di un falegname di nome Mastro Ciliegia, al quale capitò tra le mani uno strano pezzo di legno. Mentre stava per tagliarlo, il pezzo di legno cominciò a lamentarsi. Impaurito, Mastro Ciliegia decise di liberarsene, regalandolo ad un suo amico di nome Geppetto, che voleva costruirsi un burattino. Geppetto, che di mestiere faceva il ciabattino, tornò a casa contento, con sotto braccio il pezzo di legno, pensando al nome che avrebbe dato al burattino. «Lo chiamerò Pinocchio!» Questo nome gli porterà fortuna. Arrivato nel misero sottoscala che gli serviva da casa e da bottega, cominciò a intagliarlo. Ma a un tratto... «Ai! Mi fai male!» si sentì dire. Con sua grande meraviglia il pezzo di legno era animato. Il buon uomo, emozionato, continuò il suo lavoro. Modellata la testa, gli fece i capelli e poi gli occhi, che subito si misero a guardarlo fisso fisso. Aveva appena fatto il naso che questo cominciò a crescere e per quanto lo tagliasse rimaneva sempre lungo. La bocca, appena intagliata, cominciò a ridere. E poiché Geppetto protestava arrabbiato, gli tirò fuori la lingua. Bla bla bla bla bla. Ma questo non era ancora niente. Quando il ciabattino gli ebbe fatto le mani, il burattino gli portò via la parrucca e quando ebbe le gambe, per prima cosa gli tirò un calcio. Geppetto, con le lacrime agli occhi, esclamò: «Che birba d'un figlio! Non t'ho ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre!» Poi prese il burattino sotto braccio e un passo dietro l'altro cercò di insegnargli a camminare. Pinocchio, sgranchite le gambe, poco dopo si mise a correre per tutta la stanza e Geppetto dietro, senza poterlo raggiungere, finché il burattino, aperta la porta, scappò nella strada. Ma Pinocchio correva più svelto di lui e, benché il povero ciabattino continuasse a urlare «fermatelo, fermatelo», fra la gente che assisteva divertita alla scena, nessuno si mosse. Per fortuna, un carabiniere, sentite le grida, si mise a gambe larghe in mezzo alla strada e bloccò il fuggitivo, riconsegnandolo al padre. «Ti tirerò le orecchie!» disse Geppetto, ancora trafelato per la corsa, al burattino. Ma si accorse che non avrebbe potuto punirlo in questo modo perché si era dimenticato di fargliele nella fretta le orecchie. Pinocchio, che si era molto spaventato nel trovarsi tra le manacce del carabiniere, chiese scusa a Geppetto di essere scappato e questi lo perdonò. Anzi, appena a casa, gli fece un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di mollica di pane. Il burattino abbracciò il padre. «Voglio andare a scuola! Diventare bravo a aiutarti nella tua vecchiaia!» esclamò felice. Geppetto, commosso, rispose: «Ti ringrazio dei tuoi buoni propositi, Pinocchio, ma non abbiamo neanche i soldi per comprare il sillabario!» Pinocchio si fece triste anche lui, mentre Geppetto, rimasto pensieroso, si alzò d'un tratto in piedi e, infilatasi la vecchia casacca di fustagno, uscì di casa correndo. Poco dopo tornò con in mano un abbecedario, ma senza la casacca. Fuori nevicava. «E la casacca, babbo?» «Beh, l'ho venduta.» «Perché l'hai venduta?» «Perché mi faceva caldo.» Pinocchio saltò al collo di Geppetto per baciare un padre così buono. Aveva smesso di nevicare e Pinocchio, con l'abecedario sotto il braccio, s'avviò per andare a scuola pieno di buoni propositi. «Oggi voglio subito imparare a leggere, domani a scrivere e dopodomani imparerò a fare i conti. Poi guadagnerò dei soldi e comprerò una bella giacca nuova a Geppetto, se la merita, perché...» Il suo fantasticare fu interrotto dal suono improvviso di una banda. E Pinocchio, dimenticando la scuola, si trovò in una piazza piena di gente che si affollava intorno a un baraccone dai colori vivaci. «Che cos'è quel baraccone?» chiese. «Non sai leggere? È il Gran Teatro dei Burattini. E quanto si spende per entrare?» «Quattro soldi!» «E chi mi dà quattro soldi per questo bel libro nuovo?» chiese a voce alta Pinocchio. Un rigattiere lì vicino comprò l'abecedario e Pinocchio poté entrare a teatro. Povero Geppetto, com'erano stati vani i suoi sacrifici! Era appena entrato nel teatro che una delle marionette che si muovevano sulla scena si accorse della sua presenza e cominciò a urlare: «C'è Pinocchio! C'è Pinocchio! Vieni, vieni qui con noi! Vieni! Evviva Pinocchio, nostro fratello!» Si misero a chiamare tutti i burattini in coro. Pinocchio salì sul palco in mezzo ai nuovi amici, mentre in platea il pubblico protestava per tutta quella confusione. Uscì allora Mangiafuoco, il burattinaio, un omone spaventoso a guardarsi, gli occhi truci, iniettati di sangue. «Cosa succede? Basta così! Tutti in riga, stasera faremo i conti!» La sera Mangiafuoco si mise a tavola, ma quando si accorse che gli mancava della legna per finire di cuocere un bel pezzo di montone, si ricordò dell'intruso che aveva interrotto lo spettacolo. «Vieni qua, Pinocchio! Mi servirai come legna da ardere!» Il povero burattino cominciò a piangere e implorare: «Babbo mio, salvami! Non voglio morire! Non voglio morire!» Mangiafuoco, nel sentire le invocazioni di Pinocchio, domandò: «Il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?» «Il babbo sì, ma la mamma non l'ho mai conosciuta», rispose Pinocchio con un filo di voce. L'omone cominciò a intenerirsi. «Chissà che dispiacere sarebbe per tuo padre se ti buttassi nel fuoco. Ma devo finire di cuocere il mio montone. Vuol dire che brucerò un altro burattino. Gendarmi, venite qui! Portatemi Arlecchino ben legato!» Pinocchio, nel vedere l'altro burattino che stava per essere bruciato al suo posto, si mise a piangere più forte di prima. «Pietà, eccellenza, pietà, mio signore, vi chiedo grazia per il povero Arlecchino!» «Qui non c'è grazia che tenga! Io voglio mangiare della carne ben cotta!» «In questo caso!» gridò finalmente Pinocchio rialzandosi in piedi. «Non è giusto che Arlecchino debba morire al mio posto! Bruciatemi!» Mangiafuoco rimase perplesso. «Guarda, guarda!» si disse. «Un burattino eroe non l'avevo mai incontrato!» Tirò su col naso e disse con tono più gentile: «Sei proprio un bravo ragazzo! Quasi, quasi!» Pinocchio cominciò a sperare. Gli occhi terribili del burattinaio lo fissarono a lungo finché finalmente... «Va bene! Va bene, per stasera mangerò il montone mezzo crudo, ma la prossima volta guai a chi tocca!» Fra i burattini ci fu subito gran festa per la grazia ricevuta. Mangiafuoco si fece raccontare da Pinocchio la sua storia e, impietosito per la bontà di Geppetto, regalò al burattino 5 monete d'oro. «Portale a tuo padre, poveretto. Digli di comprarsi una casacca nuova e salutalo tanto da parte mia!» Pinocchio, felice, lasciò il teatro delle marionette ringraziando Mangiafuoco per la sua generosità. Stava tornando a casa di corsa quando incontrò un gatto mezzo cieco e una volpe zoppa e non seppe resistere alla tentazione di raccontare loro la fortuna che gli era capitata. I due, nel vedere le monete d'oro, architettarono subito un piano e gli dissero: «Se vuoi davvero far felice tuo padre, dovresti portargliene molte di più. Noi conosciamo un campo magico dove potresti seminarle e raccoglierne 10 di più il giorno dopo.» «Ma com'è possibile?» domandò Pinocchio stupito. «Te lo spiego subito», disse la volpe. «Nel paese dei Barbagianni c'è un campo chiamato da tutti il campo dei miracoli, dove se in una piccola buca metti uno zecchino d'oro, il giorno dopo trovi un bell'albero di monete nuove. Pinocchio ingenuamente si lasciò convincere dai due falsi amici e finì all'osteria del Gambero Rosso per festeggiare il loro incontro e la futura ricchezza. Dopo la cena e un breve riposo, avrebbero dovuto ritrovarsi tutti e tre a mezzanotte per raggiungere il campo dei miracoli, ma Pinocchio, svegliato dall'oste all'ora fissata, seppe che il gatto e la volpe erano già partiti da tempo, lasciandolo solo. Non gli rimase che pagare la cena con una delle monete d'oro e avviarsi attraverso un sentiero nel bosco verso il campo magico, quando improvvisamente «Oh la borsa! Oh la vita!» gli imposero due brutti ceffi incappucciati di nero. Pinocchio, che aveva nascosto le monete sotto la lingua, non rispose. Inutili furono i tentativi dei due di sapere dove fossero i soldi. Pinocchio, zitto, non parlava, nonostante i due minacciassero di impiccarlo. I banditi allora misero intorno al collo del povero burattino una corda che si stringeva sempre più. «Babbo, aiutami!» fu l'ultimo pensiero di Pinocchio. Il gatto e la volpe, poiché erano loro due i briganti incappucciati, si allontanarono minacciando: «Resterai appeso finché non ti deciderai a parlare. Torneremo fra poco a vedere se hai cambiato idea». Ma una fatina che abitava lì vicino sentì le invocazioni. Da una finestra del suo castello, la fatina dai capelli turchini vedeva Pinocchio dondolare scalciando appeso a una quercia del bosco. Impietosita, batté tre volte le mani e di colpo un falco e un cane apparvero come per incanto. «Svelto!» disse la fatina al primo. «Vola sulla quercia e col tuo becco taglia la corda che trattiene quel povero ragazzo!» E al secondo: «E tu, prepara una carrozza e portalo qui con tutti i riguardi!» Detto fatto, Pinocchio, che sembrava morto, si trovò al castello in un bel letto caldo, mentre Corvo, Civetta e Grillo, tre medici famosi, erano chiamati a consulto dalla fatina. Una medicina molto amara, consigliata dai tre saggi medici, guarì subito Pinocchio. La fatina allora, accarezzando il burattino, gli chiese: «Raccontami cosa ti è successo». Pinocchio cominciò la sua storia senza parlare della vendita dell'abbecedario, ma quando la sua benefattrice gli chiese dove erano le monete d'oro, disse di averle perse, mentre invece sapeva di averle nel frattempo nascoste in tasca. Subito il suo naso cominciò ad allungarsi sempre di più, mentre la fatina, ridendo, gli diceva: «Hai detto una bugia! Si vede subito dal naso che si allunga!» Pinocchio, rosso di vergogna, non sapeva più dove mettere quel naso ingombrante e si mise a piangere. La fatina allora, impietosita ancora una volta, batté le mani e un nugolo di picchi arrivò subito a beccare il naso, che così tornò normale. «Ricordati, Pinocchio, di non dire più bugie, altrimenti il tuo naso si allungherà di nuovo», gli raccomandò la fatina. «Adesso va da tuo padre e portagli le monete». Pinocchio, riconoscente, l'abbracciò e partì di corsa per tornare a casa. Ma, vicino alla grossa quercia nel bosco, ritrovò il gatto e la volpe. E, disubbidendo alle promesse fatte, ingenuamente si lasciò di nuovo convincere a seppellire le monete nel campo dei miracoli. Il giorno dopo ritornò fiducioso, ma, ahimè, le monete erano scomparse. Pinocchio, sconsolato, ritornò a casa senza le monete che Mangiafuoco gli aveva dato per Geppetto. Ma il babbo, dopo averlo sgridato per la lunga assenza, lo perdonò e la scuola accolse il burattino che sembrava aver messo finalmente giudizio. Ma di nuovo comparve qualcuno a portarlo sulla cattiva strada. Era Lucignolo, il più svogliato della classe. «Perché non vieni con me nel paese dei balocchi, dove non si studia mai e si gioca tutto il giorno?» «Ma esiste davvero un paese così?» chiese Pinocchio incredulo. «Stasera passa il carro che mi porterà là», disse Lucignolo. «Vuoi venire?» Pinocchio, dimenticando le promesse fatte al padre e alla fata turchina, si stava mettendo ancora una volta nei guai. Venne mezzanotte e il carro arrivò per prendere i due amici e altri due ragazzi che, come loro, non vedevano l'ora di arrivare in un paese dove non esistevano più libri, né maestri, né scuole. La carrozza era trainata da 12 pariglie di ciuchini, tutti della stessa grandezza, che invece di essere ferrati come le altre bestie da tiro, avevano alle zampe stivaletti da uomo di pelle bianca. Tutti salirono sulla carrozza e Pinocchio, più felice degli altri, montò su un ciuchino. Il paese dei balocchi li aspettava. Nel paese dei balocchi tutto era proprio come Lucignolo aveva promesso. I ragazzi si divertivano senza mai studiare. Era proibito parlare di scuola e a Pinocchio non sembrava vero di poter sempre giocare. Che bella vita! Diceva Pinocchio tutte le volte che incontrava Lucignolo. Vedi che avevo ragione? Ribatteva Lucignolo soddisfatto. È vero, Lucignolo, se oggi sono felice è tutto merito tuo. E pensare che il maestro mi diceva di non frequentarti. Ma una mattina, svegliandosi, Pinocchio ebbe una bruttissima sorpresa. Lui, che aveva le orecchie solo disegnate perché Geppetto non aveva fatto in tempo a intagliarle, si accorse toccandosi che durante la notte gli erano cresciuti un magnifico paio di orecchi pelosi. Ma non era tutto! La mattina dopo erano cresciuti ancora di più! Pinocchio, dalla vergogna, si infilò un gran berretto di cotone e andò a cercare Lucignolo. Anche l'amico però aveva in testa un berretto che gli scendeva fino al naso. I due ragazzi si guardarono a lungo, pensando alla stessa cosa. Insieme si tolsero i berretti e si misero a ridere nel vedersi a vicenda così buffi con quelle lunghe orecchie pelose. Ridevano, ridevano, ma a un tratto Lucignolo impallidì e cominciò a barcollare. Aiuto, Pinocchio, aiuto! Ma anche Pinocchio stava già barcollando e si mise a piangere. Il viso dei due ragazzi cominciò a prendere la forma di un muso, mentre sentivano il bisogno di camminare a quattro zampe. Stavano diventando due somari! Continuavano a lamentarsi di quella trasformazione, ma ormai, invece di gemere, ragliavano! Quando il padrone del carro che li aveva condotti al paese dei balocchi sentì il raglio dei nuovi asini, si sfregò le mani tutto contento. Ecco due nuovi somari da portare al mercato, ne ricaverò almeno 4 monete d'oro. Questo era dunque il triste destino di tutti i ragazzi che lasciavano la scuola per passare le giornate a giocare. Lucignolo fu venduto a un contadino. Pinocchio invece fu comprato dal padrone di un circo che voleva ammaestrarlo per poi farlo saltare e ballare come gli altri animali della compagnia. Com'era dura la vita del somaro! Da mangiare, fieno, e quando era finito, paglia, e giù frustate tutti i giorni per imparare i difficili esercizi del circo, finché un giorno, costretto a saltare nel cerchio, cadde malamente e si azzoppò. Il direttore del circo chiamò il garzone di stalla. Non so che farmene di un somaro zoppo. Portalo in piazza e rivendilo, anche per poco. Ma nessuno comprava un ciuco tanto malconcio, finché un ometto disse: oh beh, lo compro io per la sua pelle. Vorrei farne un bel tamburo per la banda del mio paese. E così per pochi soldi Pinocchio cambiò padrone e nel sentire la triste fine che lo aspettava, ragliò a lungo e lamentosamente. L'uomo condusse il ciuco sulla riva del mare, gli mise un grosso macigno al collo e legò una zampa con una lunga corda. Poi, con una spinta, lo buttò nell'acqua. Con in mano la fune si sedette sullo scoglio, aspettando che il ciuco morisse affogato per poi scorticarlo e togliergli la pelle. Sott'acqua, Pinocchio sentiva la fine vicina. In un lampo, ripensò ai dispiaceri che aveva dato a Geppetto, alle promesse non mantenute, e invocò ancora una volta la fata dai capelli turchini. La fata sentì il richiamo e vedendo che Pinocchio stava per affogare, gli mandò intorno un branco di grossi pesci che si misero a divorare tutta la carne del somaro finché arrivarono all'osso, ossia al legno di cui era fatto Pinocchio. A quel punto i pesci smisero di mangiare, mentre Pinocchio sentiva la fune tirarlo fuori dall'acqua. Invece dell'asino morto, l'uomo, sbalordito, vide quindi apparire a fior d'acqua il burattino vivo, che si dimenava come un'anguilla. Riavutosi un po' dal primo stupore, balbettò quasi piangendo: il ciuco che ho gettato in mare, dov'è? Quel ciuchino sono io! rispose il burattino ridendo. Tu non credere di prendermi in giro se mi arrabbio io! Pinocchio pazientemente gli raccontò allora la sua storia. Ecco perché tirando la fune avete trovato un burattino vivo invece di un somaro morto. La tua storia non mi interessa, urlò imbestialito l'uomo. Io so che ho perso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Se non ho più il mio ciuco ti porterò al mercato per rivenderti appeso come legna da ardere. Pinocchio, che si era slegato, gli fece allora uno sberleffo e con un bel salto si tuffò in acqua, allontanandosi a nuoto. Addio padrone! Se avete bisogno di un po' di legna stagionata per il vostro camino, ricordatevi di me! Pinocchio, felice di essere di nuovo un burattino di legno, nuotava allegramente allontanandosi dalla spiaggia. Ben presto fu un puntino lontano in mezzo al mare. Ma le sue disavventure non erano finite. Un enorme, mostruoso pesce cane emerse dal mare alle sue spalle. Pinocchio, atterrito, si accorse della smisurata bocca che lo inseguiva e cercò di fuggire nuotando il più velocemente possibile, ma il mostro si avvicinava sempre di più. Cercò anche di cambiare direzione, ma invano. Raccolse allora tutte le sue forze per una fuga quasi impossibile. Sentiva dietro di sé il risucchio dell'acqua che entrava nell'immensa apertura. D'un tratto si trovò inghiottito con violenza insieme a tanti altri pesci che avevano avuto la sventura di trovarsi davanti al terribile pesce cane. Pinocchio fu sballottato con violenza dal vortice d'acqua nella gola del mostro fino a rimanere stordito. Quando rinvenne, si trovò nel buio più profondo. Mentre sentiva sopra di sé a intervalli lo spaventoso ansimare delle branchie del pesce, cominciò a inoltrarsi carponi per quella che gli sembrava una strada in discesa, urlando «Aiuto! Aiuto! Nessuno viene a salvarmi!» D'un tratto intravide un fioco chiarore e via via che si avvicinava si accorse di una fiammella che brillava lontana. Finché cammina... «Babbo! Com'è possibile? Pinocchio! Figlio mio, sei proprio tu!» I due si abbracciarono piangendo dalla commozione e fra i singhiozzi cominciarono a raccontarsi le loro disavventure. Geppetto, con le lacrime agli occhi, accarezzava la testa del burattino e cominciò a raccontargli come era capitato nella pancia del pesce cane. «Ti ho cercato dappertutto, figliolo. Poi, visto che non ti trovavo sulla terra, mi sono costruito una barchetta per cercarti in mare. Ma prima una burrasca mi capovolse, poi il pesce cane mi inghiottì. Per fortuna ogni tanto questo mostro ingoia anche i resti di navi affondate dalle tempeste e allora trovo fra i rottami quello che mi serve per sopravvivere». «Però siamo ancora vivi», disse Pinocchio quando ebbero finito di raccontarsi le loro peripezie. «E dobbiamo fuggire da qui». Il burattino, preso per mano Geppetto e facendosi luce con la candela, cominciò a risalire lungo il corpo del mostro. Arrivarono nella gola spaziosa del pesce cane e qui si fermarono, pieni di paura. Ma per loro fortuna di notte questi dormiva a bocca aperta perché era malato d'asma. «Ecco, è il momento di scappare», bisbigliò Pinocchio. E poco dopo il burattino nuotava veloce reggendo sulle spalle Geppetto. Per loro fortuna il giorno prima il pesce cane si era avvicinato alla spiaggia. Così poco dopo riuscirono a raggiungere la riva. Albeggiava. E Geppetto, tutto bagnato, era mezzo morto dalla paura e dal freddo. «Appoggiati al mio braccio, bambino caro. Non so dove siamo, ma vedrai che troveremo di nuovo la strada di casa». Vicino alla spiaggia c'era una vecchia capanna di frasche abbandonata, dove trovarono un primo rifugio. A Geppetto era venuto un gran febbrone e Pinocchio uscì. «Vado a cercarti del latte, babbo». Un belare di capre lo guidò nella direzione giusta e poco dopo si trovò davanti a un contadino, senza soldi però per comprare il latte. «Il mio somaro è morto, se farai girare al suo posto la macina del mulino per mezza giornata, avrai il latte che desideri». Così, per giorni e giorni, Pinocchio ogni mattina si alzava presto per provvedere al mantenimento di Geppetto. Tornarono finalmente a casa. E Pinocchio lavorava fino a tardi fabbricando canestri e panieri di giunco per guadagnare da vivere per sé e per il padre. Un giorno venne a sapere che la fatina, colpita da mille disgrazie, si trovava malata all'ospedale. Per aiutare la sua benefattrice rinunciò a un vestito nuovo e le mandò i soldi per curarsi, anche se a costo di grandi sacrifici. E una notte Pinocchio fece un sogno bellissimo in cui apparve la fatina che lo ringraziava, e la mattina appena sveglio si accorse allo specchio di essere un altro. Vide l'immagine di un bel ragazzo dai capelli castani e dagli occhi celesti. Geppetto lo abbracciò felice. «E il vecchio Pinocchio di legno dov'è?» gli chiese subito il ragazzo ancora incredulo. «Eccolo là», gli rispose allora Geppetto. «Quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, cambiano vita e anche aspetto». Oh, ci siamo. Il bimbo che dice intanto? Vieni, Seba. Seba, vieni. Vieni, se volevi parlare. Ti è piaciuto? Vuol dire brutto scimmiotto polendina? No. No, no. Non vuole commentare. Non la vuole commentare. Della mamma. Però non si è addormentato e questo è positivo. Senti Sonia, no, io sì, avevo avuto modo di vederti a teatro per Postpartum, che sì, poi abbiamo trasmesso infatti, di Betta Cianchini, so. Una registrazione. Sì. Sì, e sì, quindi la tua formazione è prevalentemente teatrale? Sì, io ho fatto la Silvio D'Amico, che è una, chiaramente l'accademia per eccellenza, che dà appunto una formazione classica, diciamo così. Poi ho fatto tantissime esperienze lavorando con tanti registi diversi, per cui insomma ho potuto allargare anche il campo delle esperienze, della formazione così. E principalmente sì, faccio teatro, poi capita insomma di fare un po' di televisione, queste cose qua. Però diciamo che la passione primaria è quella lì. Senti, e la radio? E la radio io la adoro, a me piace tanto. Io in realtà ancora prima di fare l'attrice per 2 anni ho lavorato in una radio. Ah. Perché pensavo di fare la giornalista, non so che cosa, insomma, per cui, però il rapporto con il microfono, la cuffia, ma anche io l'ascolto tantissimo la radio, mi piace veramente tanto, e soprattutto leggere alla radio, trovo che sia quando da ascoltatrice che da attrice, quando mi capita di farlo, penso che sia una cosa molto bella, suggestiva sì, proprio bella. Senti, in radio ti occupavi di informazione? Mi occupavo di informazione in realtà, sì, facevo i radiogiornali della cronaca locale per lo più, e poi avevo cominciato anche a fare qualcosa legata alla critica degli spettacoli che c'erano in zona, perché già mi interessavo di teatro, ma avevo 17 anni, 18, ero proprio piccina, insomma. Senti, invece le letture? Le letture in che senso? Ne hai fatte? Sì, ho fatto dei radiodrammi, ho lavorato, ho fatto delle cose, sì, come no, le ho fatte, e devo dire che veramente è una, in generale leggere è una cosa che mi piace tanto, mi fa entrare proprio in un mondo molto suggestivo e commovente per me, per cui sì, mi piace e trovo che sia veramente un grandissimo canale di comunicazione che non andrebbe veramente perso, e anzi dovrebbe essere incrementato. E trovo che sia veramente una bella cosa la vostra iniziativa di leggere le favole, perché c'è pochissima radio per i bambini, pochissima, sì, quasi niente. Sì. Senti, il tuo rapporto con il figliolo viaggia anche attraverso le pagine scritte? Assolutamente, questa io ho scelto Pinocchio perché tra le altre cose, insomma, principalmente è la sua favola preferita. E gliela leggo da quando era bambino, poi vabbè, il film famoso di Comencini, così. E sì, gli leggo tante favole, indubbiamente, prima di andare a dormire o anche durante la giornata, se capita. E poi lui ascolta sempre la versione di Carmelo Bene. Che c'è, forse la conoscerete. No, c'è una versione di Carmelo Bene che ha fatto in teatro e registrata in radio, che è bellissima, e io devo dire che da quando ho ascoltato quella ci sono dei personaggi che li vedi e li puoi sentire solo così, per cui qui chiaramente non li ho voluti ricopiare perché sono talmente meravigliosi. E lui è appassionato di quella versione di Pinocchio di Carmelo Bene, molto particolare. È bella, sì. Tra l'altro invece quella di Comencini ha segnato tutti, almeno per quanto riguarda la nostra infanzia, e David ha anche recuperato qualche traccia musicale di quella splendida colonna sonora. Meravigliosa. Sì, ma infatti io lui l'ho proprio introdotto attraverso il film, da quando era piccolino piccolino. Poi dopo la storia, e poi mi sono anche fatta il dubbio, dico, ma non è che poi prende a modello Pinocchio e diventa un bugiardo cronico? Speriamo. Speriamo. Senti, e il figliolo come le vive le favole? La dimensione favole. Come le vivi le favole, Seba? Ti piacciono? Sì, sì, annuisce. Dice. Beh, io penso che per i bambini sia una dimensione molto naturale, che va a raccogliere completamente il loro mondo di riferimento, quello che è ancora non espresso attraverso un linguaggio adeguato, attraverso parole, diciamo. Per cui io vedo che ogni volta sono catturati e ritrovano quello, come se avessero le parole per tutto quello che li anima dentro, secondo me, per le immagini che hanno. Poi chiaro, sappiamo insomma che le fiabe hanno una funzione educativa, alcune sono tremende, insomma i vari cappuccetti rossi, c'è un sacco di ammazzamenti, un sacco di morti. Però che io infatti una serie di favole gliele ho censurate tra virgolette, insomma, non gliele leggevo quando era troppo piccolo, avevo letto un po' di informazioni al riguardo, per cui no cappuccetto rosso prima di una certa età, no questo, no quell'altro, perché ci sono effettivamente dei passaggi che corrispondono alla psiche del bambino che non sono ancora, che loro non sono ancora pronti ad elaborare. Appunto il cappuccetto rosso, il fatto di andare nella pancia del lupo e poi essere aperta la pancia e uscire, insomma tutta una serie di cose. E per esempio nel caso di Sebastiano, le prime volte che aveva a che fare con la balena, quel pezzo lì noi lo saltavamo all'inizio quando era piccolo, dopodiché invece è diventato il fulcro della sua attenzione, perché quel thrilling che dà l'incontro con la balena è una cosa che a un certo punto, a una certa età, per loro scatta e lo vogliono, hanno bisogno di sentire quella pauretta lì, però la sanno emozionare, però solo quando la sanno governare. Mentre prima è troppo presto, sì. Dunque gliela levavo, insomma, la balena ancora non era introdotta. Sì. No, questa della scelta delle favole è una questione che ci siamo posta, soprattutto all'inizio, relativa per esempio alle favole dei secoli scorsi, a tutta la morale che si portavano dietro. E invece nella scelta per tuo figlio, dove ti sei indirizzata? Guarda, io devo dire che le favole classiche non le amo particolarmente, per cui Biancaneve, lui ha 6 anni, Biancaneve è un'acquisizione recente, per esempio, vabbè, è la classica favola per le bambine, per cui tra le compagnette di scuola, amichette, eccetera, eccetera, l'abbiamo introdotta più tardi. Per cui mi piace più andare su storie non conosciute, mi piace molto la tradizione orientale delle favole, vabbè, Le Mille e Una Notte, oppure ecco un'altra cosa che mi piace molto raccontargli sono i personaggi dell'epica attraverso le favole, tipo Omero, insomma Ulisse, lui conosce la storia di Ulisse, ecco, sono un po'. Poi è chiaro, sa chi è Cappuccetto Rosso, il gatto con gli stivali che gli piace tanto, però tante altre non sono una grandissima amante di quel genere di favole, la trovo un po' stereotipata oggi, soprattutto in tutte le versioni di Disney, dove poi alla fine la lettura è solo quella, puoi vederlo solo in quel modo. Sì. Per cui mi piace, mentre secondo me Pinocchio, per quanto ne abbiano fatto anche appunto versioni di cartoni eccetera, però mantiene un qualcosa di talmente affascinante che forse perché è nostra, perché è italiana, perché c'è un riferimento, non lo so, forse per il film di Comencini che effettivamente ci ha veramente segnato tutti. Però ecco, sì, cerco di fare delle scelte meno consuete. Quindi narrativa orientale, l'epica greca. Sì, per adesso in realtà soltanto Ulisse, poi storie di cavalieri, il cavaliere inesistente di Calvino. Infatti ti volevo chiedere proprio rispetto ai contemporanei. Rodari e Calvino, che gliel'ha regalato un nostro amico. E infatti li abbiamo ospitati sia le letture sia di Rodari che di Calvino. Sì, questi qui sì. E, adesso non mi viene in mente nient'altro, ma pressappoco sì. Sono queste. Queste qua sono. E poi appunto Le Mille e Una Notte. Poi ho una raccolta di fiabe di un impronunciabile ma maestoso scrittore cinese del Settecento, le cui fiabe sono state poi ritrovate postume, che forse il nome non lo so proprio pronunciare. però anche quelle sono molto belle. Certo, il contesto di riferimento è molto caratterizzato. Per noi sì. La provincia di Chen non significa nulla, però insomma è nella morale che c'è. E poi anche chiaramente le favole di Fedro. Fedro? Sì, sì. Sì, ok. Sì, sì, sì, sì. Quelle, un po' di qua, un po' di là. Senti, visto insomma, che hai portato in scena uno spettacolo come postpartum, sì. Ecco, la maternità, come ha cambiato il tuo modo di relazionarti anche ai bimbi? Beh, diciamo che mi ha... come dire, mi ha introdotto a qualcosa che nella vita è molto naturale, mm-hmm. e che forse per questo mestiere nostro di attori, che siamo sempre chiamati a fare i bambini, è diventato così artefatto invece, mm-hmm. il mondo dei bambini che te ne allontani. E invece, insomma, diventare mamma mi ha molto avvicinato a qualcosa che mi sembrava di conoscere e che invece non conoscevo proprio per niente. Era veramente uno stereotipo, anche il rapporto del gioco, no? Perché poi è tutto viziato dal fatto di rendere tutto teatrale. E dunque, insomma, mi ha reso molto, molto più pragmatica, ha stabilito chiaramente tutta una serie di priorità, eccetera. E poi col mondo dei bambini, secondo me, mi ha dato una chiave d'accesso spontanea, ecco, molto più spontanea di quella che poteva essere prima, poco intellettuale, molto pratica, molto diretta. Parlavamo prima della lettura. Qual è secondo te il modo migliore per stimolare il loro immaginario? E beh, sicuramente il racconto. Il racconto fa veramente tanto. Proprio il passaggio attraverso la voce, il suono della voce, perché si imprime nel corpo. Si imprime veramente nelle ossa, per cui il racconto è qualcosa di fondamentale, secondo me. Sì. Per loro, più io infatti veramente, con tutto che la televisione, lo sappiamo, è imperante ed è difficile staccarsene o perlomeno limitarla, però devo dire che cerco sempre tantissimo di favorire altro, perlomeno diamoci un'alternativa, perché sennò... L'ascolto. Sì, l'ascolto. E poi aiutarli a raccontare loro le storie. Ah, bello. Per cui gli ho preso un teatrino dei burattini, per cui lui racconta... Quante volte abbiamo fatto con il suo papà Lucignolo, Pinocchio, e abbiamo rappresentato i vari personaggi, il gatto e la volpe, noi a casa così giocando, per cui è... Senti, tornando invece al tuo lavoro, dicevi del teatro, della televisione, ecco, sulla televisione qualche considerazione l'hai fatta, in che rapporto vivi tutte e due, cioè il teatro e la televisione? Da attrice. Ma io trovo che purtroppo in Italia, e quando parliamo di Italia c'è sempre il purtroppo che precede il nome del nostro paese, anche questo è diventato un cliché, purtroppo in Italia c'è una grande separazione tra teatro, televisione e cinema per gli attori, per cui o lavori in uno dei tre campi o tutti e tre, proprio se sei arrivato a diventare il classico nome ti puoi permettere, e neanche troppo, perché quelli che hanno avuto successo al cinema, per fare teatro devono accontentarsi di farlo magari gratuitamente perché si devono far conoscere lì, viceversa per chi è conosciuto in teatro si deve accontentare di fare due pose in televisione, magari ha preso un sacco di esperienza e si potrebbe permettere di più come resa artistica, ma è tutto da costruire, dunque a me non è chiaro che mi piacerebbe spaziare in tutti e tre i campi con grande fluidità, capisco. Sebastiano se ne vuole andare, ma dobbiamo aspettare. Abbiamo quasi finito, Sebastiano. Quasi finito. Ma capisco, insomma, che è difficile. Sì, sì. Io dopo tanti anni di teatro mi piacerebbe, devo dire, proprio approfondire il versante del lavoro con la macchina da presa. Con tutto che prodotti di televisione buona, di storie belle, lo sappiamo, sono anche molto pochi. Per cui, e devo dire che indubbiamente una scelta a priori io l'ho fatta, non mi va, non voglio fare la presuntuosa, però non mi va di fare, che ne so, appunto una posa in una serie televisiva, dove preferisco appunto essere più creativa in altri campi e trovare, quando capita, insomma, l'occasione bella per poter fare qualcosa di bello anche in teatro, in televisione e in cinema. Mm-hmm. Ma di starci, pur di vedermi passare lì davanti, non mi interessa, questo ho in dubbio. Mm-hmm. Per cui queste sono scelte che si pagano, chiaramente, sì, come tutto, insomma, sì, uno fa una cernita delle occasioni e penso che quando sarò vecchia lavorerò tantissimo in cinema e televisione, aspettatemi, mi vedrete. Senti, dove ti vedremo prossimamente? Il 23 giugno adesso facciamo di nuovo Postpartum al Teatro dei Documenti, per cui questa è una prima data. Poi il 9 luglio c'è un festival legato al quartiere della Garbatella, uh-huh, in cui farò un monologo con insieme a Evelina Megnagi, che canterà. Ed è la storia di una donna che vive nel momento della guerra, della seconda guerra mondiale, e racconta, insomma, le sue vicende legate al nazismo, tutto legato, mm-hmm, ambientato nel quartiere, ecco. Ti ricordi il nome del festival della Garbatella? Sai che non me lo ricordo, faccio proprio una figuraccia, faccio fare. Comunque, insomma, la promotrice di questa iniziativa per il nostro monologo è Noemi Serracini. Ah, e però ecco, siccome è fresca, verrà ospite, qua, ecco, è già stata. Siccome è una cosa fresca fresca di questi giorni, tutti i nomi non mi ricordo, però insomma il 9 luglio faremo questo monologo qua. Sì, tra l'altro Betta Cianchini ce l'aveva detto dello spettacolo al Teatro dei Documenti, che è un teatro molto bello. Molto bello, molto, bello, molto particolare, molto poco sfruttato purtroppo, sì, ma veramente, sì, bello. Sì, per cui sì, il 23 lì, poi il 9 luglio, 9 poi luglio. Penso di farmi un po' di vacanza. Ma vacanza vuol dire al turno, niente di che. Benissimo, allora ti lasciamo. Grazie. Al figliolo. Vuoi che impazza. Seba? Al microfono? Al microfono? Sì. No, non se la sente. Grazie a David per la sua musica sempre azzeccata. Complimenti, grazie. Grazie, Sonia. Grazie a te, Federico. Grazie a voi di avermi invitata. Ad Ottavia, che non ho incontrato, ma insomma, un saluto e spero a presto. Benissimo. Ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, sempre con Stona Favola dalle 15. Buon proseguimento.